che diffondi la luce blu di lassù. Sospiri chissà perché. Espandi la luce blu, anche tu cerchi forse chi non c'è più. Forse chi non c'è più.